La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 60. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. L'articolo 60 sancisce la durata della legislatura, cioè il fatto che Camera e Senato sono eletti per 5 anni. Il testo iniziale della Costituzione differenziava la durata naturale della legislatura, in quanto la Camera era eletta per 5 anni e il Senato per 6 anni. Questo accadde per le prime 2 legislature, in cui avvenne uno scioglimento anticipato del Senato per parificare la durata delle 2 Camere, quindi sia nel 53 che nel 58, e poi si è arrivata alla modifica costituzionale che ha del tutto equiparato la durata delle 2 Camere. Il secondo comma dell'articolo 60 ci ricorda invece che la durata delle Camere non può essere prorogata, quindi le Camere devono durare naturalmente e necessariamente 5 anni e che un'eccezione possa accadere soltanto in caso di guerra. La fine della legislatura è un momento importante per la vita delle Camere, in quanto comporta l'effetto di far decadere tutto ciò che le Camere stavano facendo. Cioè, quando si insedia il nuovo Parlamento, si ricomincia da zero, per cui tutte le leggi non esaminate, non approvate, non potranno più essere prese in considerazione. Questa si chiama tecnicamente la decadenza per fine legislatura. Tuttavia, da questa decadenza si sottraggono 3 tipi di atti. Questo è interessante ed è curioso, perché da un lato si sottraggono i decreti legge in conversione, perché il procedimento è un procedimento che deve essere completato. Poi si sottraggono le leggi approvate ma rinviate dal Presidente alle Camere ai sensi dell'articolo 74, ma forse l'eccezione più significativa è quella dei disegni di legge di iniziativa popolare, perché sappiamo che anche il popolo può presentare i disegni di legge direttamente e in questo caso c'è una piccola plusvalenza, cioè restano all'ordine del giorno anche delle nuove Camere, non decadono, proprio in ossequio alla sovranità popolare. We're gonna make it.